Salva Danaio di Deborah Rosciani. Benvenuti a tutti da Deborah Rosciani e Salva Danaio, buona giornata e soprattutto buon inizio settimana. È un buon inizio di settimana ancora per i mercati finanziari. Da qualche giorno, dall'inizio dell'anno, ci stanno ormai abituando a questa tendenza positiva. Speriamo che non si ridimensioni, ma insomma la prudenza non è mai troppa, perché siamo abituati a vedere anche delle sorprese improvvise, lo sono per definizione chiaramente, che qualche volta un po' scompaginano tutte le nostre convinzioni. Però se il buongiorno si vede dal mattino, speriamo che questa tendenza continui e che questo ottimismo degli investitori si rafforzi progressivamente. Per quello che riguarda la borsa, vi darò adesso qualche altro dettaglio in più rispetto a questo inizio di settimana e questa prima parte della seduta, ma oggi parliamo di un altro tema che invece sta generando un po' più malumore fra le famiglie italiane, soprattutto fra la platea vastissima di contribuenti, perché partirà da marzo ed applicherà i suoi controlli alle dichiarazioni del 2010, riferendosi quindi ai redditi del 2009, il temuto redditometro 2.0, che debutta dopo quasi 3 anni di elaborazione e studio. Lo strumento si basa su 100 voci suddivise in 7 categorie, dall'alimentare all'abbigliamento, al tempo libero, alle utenze domestiche, e 55 profili di famiglie tipo costruiti a partire da dati Istat. L'Agenzia delle Entrate, quindi, sulla base disponibilità di tutte queste informazioni, cosa potrà fare? Potrà incrociare i dati sulle dichiarazioni dei redditi con le spese sostenute al fine di individuare le incongruenze e quindi contrastare l'evasione fiscale. Il meccanismo non è poi così automatico di accertamento, ma naturalmente ci sarà anche un ruolo attivo del contribuente che, qualora si ritrovasse ad avere puntato su di sé il riflettore, il faro dell'amministrazione fiscale, potrà naturalmente avere tutte le possibilità di manifestare che il suo comportamento di spesa è stato totalmente corretto. Allora, oggi, siccome questo è un tema sul quale per la verità sono stati già spesi fiumi di inchiostro, perché naturalmente è un meccanismo di accertamento che ha anche degli automatismi e spesso sono proprio questi quelli che generano più preoccupazione fra tutti noi, cercheremo di capire appunto quanto ci dobbiamo spaventare, quanto dobbiamo temere questi automatismi appunto del redditometro. Allora oggi facciamo il punto sul funzionamento di questo meccanismo, spieghiamo ai nostri ascoltatori come devono comportarsi per rispondere agli eventuali accertamenti e risponderemo appunto anche ai dubbi, alle vostre perplessità, in particolar modo alle perplessità di quelle categorie che vivono questi controlli appunto con scetticismo e preoccupazione. 800 24 00 24 è il numero verde per cominciare a prenotare i vostri interventi, le vostre domande. C'è già chi ci ha scritto su Twitter, risponderemo ad Emiliano che ci ha scritto proprio attraverso questo canale, perché per la verità Emiliano pone un tema. Io comincio già a concretizzare un po' la questione di stamattina, perché è un aspetto, quello che ci sottopone Emiliano, che io avevo già notato, sollevato per esempio su un articolo della Stampa di questa mattina. Un caso limite, una persona a 2 conti correnti, i nostri soldi rimbalzano per le nostre esigenze da un conto ad un altro, perché magari uno dei 2 conti garantisce un rendimento un po' più alto e quindi magari a seconda delle necessità parte della liquidità sul conto più remunerativo viene periodicamente travasato dall'altra parte. Allora, a quanto pare questa può essere una circostanza che può essere soggetta appunto ad essere messa sotto i riflettori della amministrazione fiscale. Non so se sia così, lo chiederemo questa mattina, sottoporremo loro naturalmente tanti altri casi ai nostri interlocutori. Questa mattina ho dovuto schierare veramente 2 personalità molto forti che sempre ci danno appunto la loro disponibilità su questi temi che in apparenza invece sono particolarmente ostici e indigesti a tutti noi. Nicola Forte, consulente tributario ed esperto per il Sole 24 Ore sulle tematiche fiscali, ha scritto tantissimo con Giovanni Parente su questo argomento. Forte, buongiorno e bentornato. Grazie, buongiorno Deborah, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Altrettanto ha fatto proprio negli ultimissimi giorni Sergio Pellegrino, commercialista in Trieste, direttore scientifico Master 24 Professionisti, dopo averlo tormentato la settimana scorsa con tutte le novità sull'IVA, una delle puntate più difficili che io abbia fatto in questi 9 anni di carriera a Salva Danaio la scorsa settimana. Oggi lo torniamo appunto a reinterpellare sul tema del redditometro, perché ne ha scritto tantissimo proprio negli ultimi giorni sul Sole 24 Ore. Pellegrino, buongiorno e bentornato. Buongiorno, grazie mille, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Allora, gli ascoltatori che, come ho detto, possono intervenire appunto al numero verde, pure potete scriverci al 349-238-6666, potete scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica salvadanaio@radio24.it, su Facebook salvadanaio-radio24 e, come indicato già prima, su Twitter @salvadanaio24. Adesso la borsa. I listini europei, come dicevamo anche nel giornale radio, confermano l'intonazione positiva d'inizio 2013. Venerdì scorso abbiamo avuto una seduta piuttosto incolore, ma diciamo che venerdì gli indici hanno consolidato i rialzi precedenti e oggi invece si riprende con la marcia positiva. Milano più 0,58% sul FTSE MIB, Parigi più 0,37%, Francoforte più 0,57%, Londra più 0,12%, anche la Spagna guadagna circa lo 0,4%. Oggi era chiusa Tokyo per festività. Non aspettiamo oggi dati macroeconomici di particolare rilievo. Dagli Stati Uniti arriverà una relazione pubblica del presidente della Banca Centrale Americana, Ben Bernanke. I temi della seduta Piazza Affari, qua ce n'è qualcuno degno di nota. Generali è il peggior titolo della seduta, meno 1,72% per il Leone di Trieste. Il gruppo oggi ha organizzato l'Investor Day a Londra, quindi l'incontro con la comunità finanziaria internazionale, e a quanto pare i target fissati non hanno convinto più di tanto, se appunto il titolo risulta essere tra i più penalizzati o erano dati target già scontati dal mercato, oppure ci si aspettava qualche elemento all'insegna della maggiore ambizione per il Leone di Trieste. Oggi il mercato appunto penalizza, non avendo visto invece questo obiettivo, appunto questi obiettivi evidentemente di Generali. Poi tra gli altri ribassi segnaliamo Atlantia meno 0,45%. Si conferma negativa secondo gli operatori in prospettiva dell'offerta pubblica di acquisto su Gemina. Diasorin meno 0,39%, Eni meno 0,36%. Andiamo a vedere invece i titoli che sono oggi proprio scoppiettanti, direi. Fiat più 6,35% per il Lingotto, Salvatore Ferragamo più 4,67% con la moda a Milano. Il gruppo supera i massimi storici, siamo a 18,61 euro. Tra l'altro, a spingere il titolo c'è anche il giudizio degli analisti di Deutsche Bank, che hanno mantenuto il giudizio hold, cioè tenere il titolo, ma hanno alzato il prezzo obiettivo. Più 4 per Telecom, più 2,56 per Exor. Spread fra BTP e Bund sotto i 260 punti base. Per la borsa è tutto, andiamo al redditometro. Undici categorie e oltre 100 voci di spesa, dall'alimentare all'abbigliamento, al tempo libero, alle utenze domestiche. 55 profili di famiglie tipo. Queste alcune delle cifre del nuovo redditometro, battezzato come versione 2.0, che entrerà a pieno regime a marzo, con l'obiettivo di stanare gli evasori fiscali, mettendo a confronto i dati sulle dichiarazioni dei redditi con quelli delle spese effettuate, a partire da un paniere costruito dall'Istat su un campione di 28.000 famiglie in tutta Italia. L'Agenzia delle Entrate prenderà in esame le dichiarazioni del 2010 e quindi i redditi del 2009. Secondo quanto previsto dalle norme, si procederà ai controlli per quei casi in cui lo scostamento tra le entrate e le uscite sarà superiore al 20%. I contribuenti hanno avuto e hanno tuttora la possibilità di mettere alla prova virtualmente la propria posizione con il Redditest, già disponibile online da qualche mese, ed eventualmente capire come giustificare la propria situazione in caso di accertamenti. Va detto però che non è certo che i risultati del Redditest siano totalmente coincidenti con quelli che potranno derivare dal redditometro. Stando alle prime simulazioni, inoltre, sembra che il nuovo sistema tenda a ridurre le spese delle famiglie numerose e ad amplificare invece quelle dei single. A fare la differenza, la decisione di definire alcune spese proporzionali al numero dei componenti del nucleo familiare, quelle alimentari, ad esempio, e altre, come il riscaldamento, indipendenti da questa variabile. Chi vive da solo, insomma, potrebbe avere qualcosa da ridire insieme ad un'altra categoria, da sempre più critica di fronte a questi strumenti, quella dei liberi professionisti, preoccupati dalla difficoltà di archiviare scontrini e fatture. Conservare gli scontrini può essere, in ogni caso, un buon consiglio da seguire per tutti. Paradossalmente, potrebbe rivelarsi più semplice giustificare l'acquisto di una casa che spiegare perché la propria spesa per gli alimenti o l'abbigliamento è inferiore alla media Istat. Infatti, se devo dirvi la verità, è proprio questo l'aspetto che a me più genera, curiosità, perché stamattina stavo riguardando quelle che, per esempio, secondo il mio profilo single fra i 35 e i 64 anni che vive a Milano, dovrei sostenere una determinata spesa annuale in alimenti e bevande, in abbigliamento e calzature, in affitto, in questo caso il mutuo, l'acqua e condominio, eccetera. Per la verità, io così ho calcolato che in media, Pellegrino, vorrei cominciare subito con lei, perché proprio lei per il Sole 24 Ore questa mattina ha commentato il confronto sul territorio dei vari profili. Ad occhio, io mensilmente, siccome per lavoro sono molto fuori casa, spendo molto meno rispetto alla cifra che teoricamente l'Istat individua per me come profilo. Potrei essere chiamata addirittura a dover giustificare il fatto che per alimentari e bevande spendo ben al di sotto della media dei 4.100 euro annuali che appunto il redditometro e l'Istat individuano secondo le mie caratteristiche anagrafiche e reddituali? Beh, questo è proprio uno degli interrogativi maggiori che ci troviamo ad affrontare nel momento in cui appunto andiamo a ragionare sulle situazioni dei singoli contribuenti. E da questo punto di vista sarà fondamentale vedere le indicazioni che darà l'Agenzia delle Entrate agli uffici periferici, perché chiaramente quando noi andiamo a considerare un dato medio, quel dato medio è frutto della media appunto di dati che riguardano diversi contribuenti e quindi per definizione insomma ci sono degli importi maggiori relativi a determinati contribuenti ed importi inferiori in altre situazioni. Il problema è che di fronte ad esempio proprio alla voce che citavi, quella degli alimenti e bevande, siamo sostanzialmente con una prova diabolica che dovrebbe fornire il contribuente, perché non c'è modo per il contribuente di dimostrare di non aver speso quel determinato importo, perché se anche volessimo ipotizzare il caso della famiglia che decide di conservare tutti gli scontrini relativi alle spese effettuate nel corso dell'anno, è chiaro che questa non è una prova di fronte all'amministrazione finanziaria di non aver consumato, ovvio, un costo maggiore, quindi, perché potrebbe sempre aver occultato la presentazione di determinati documenti di spesa. Sono effettivamente un po' situazioni limite, io lo riconosco, però sono quelle alle quali effettivamente inizialmente non si era pensato, almeno io parlo dal mio punto di vista, perché così avevo un po' soffermato la mia attenzione su quelli che erano, passatemi il termine, un po' quelli che avevo ritenuto fossero dei pregiudizi da parte degli ascoltatori che sono un po' intimoriti da questo strumento di accertamento della propria condizione reddituale e di consumatore. Se addirittura si deve dimostrare di aver avuto un tenore di vita inferiore rispetto alla media, cioè qua veramente le cose si complicano un po'. Detto questo, Nicola Forte, lei che cosa ne pensa rispetto a quello che abbiamo detto fino a questo momento? Non so se voleva aggiungere qualcosa, poi andremo appunto anche ai casi concreti, perché non vi dico già quanti ascoltatori ci stanno presentando la loro situazione per capire se potrebbero cadere nelle maglie del fisco, nelle maglie appunto dell'accertamento sintetico che poi porta effettivamente all'accertamento fiscale vero e proprio e quindi chiama il contribuente a doversi giustificare. Forte, che cosa va detto secondo lei rispetto alle questioni inizialmente poste? Io dico che il problema non è tanto lo strumento, il problema è le modalità di utilizzo, cioè che se ne faccia un uso equilibrato, quindi è difficile oggi che il nuovo strumento, che peraltro non lo dobbiamo dimenticare, è molto migliorativo rispetto alla versione precedente, sì. Redditometro. Anche Sergio Pellegrino è d'accordo con lei, lo so già. Il vecchio redditometro, come si suol dire, sparava nel mucchio, quindi questo già vuol dire che un passo avanti lo abbiamo fatto. A proposito delle spese, quindi intervengo sul tema affrontato appunto dal amico Pellegrino, che saluto tra le altre cose, un po' di tempo che non lo vedo, e il problema dell'Istat anche qui secondo me va un attimo ridimensionato. Ad esempio, io sono divertito a verificare un single nell'Italia centrale qual è la quota spesa che gli viene attribuita per alimentari, sono circa 340 euro al mese, vado grosso modo a memoria. Ora, per quanto io sia bravo a risparmiare, cosa vogliamo dire? Scendo a 200, a 180, stiamo ragionando su 1200-1300 euro l'anno, che mi rendo conto, considerando anche le altre voci, è il totale, come si suol dire, può portare a un risultato anche significativo, ma non dobbiamo dimenticare che c'è il meccanismo della franchigia, cioè la possibilità di una tolleranza, di uno scostamento che comunque è ammissibile rispetto al reddito che potrebbe presumere il nuovo strumento, che in effetti potrebbe in parte correggere queste distorsioni. Quel famoso 20%? Esattamente, perché io facevo l'esempio dell'alimentare, dicevo bene, risparmio, spendo 200 anziché 340, ragioniamo su 1200 euro. Se ho un reddito di 40.000 euro, pare che la franchigia, anche questo è un punto che dovrà essere chiarito, sarà calcolata sul reddito dichiarato, quindi un 20% su 40.000, supponiamo che 40.000 sia il reddito dichiarato, ho una soglia di tolleranza di 8.000 euro che sembra idonea a correggere queste imprecisioni, certo, questa incapacità dello strumento appunto di stimare tutto. Tra l'altro volevo fare una precisazione, poi non so se mi sbaglio, Pellegrino, ho ancora 30 secondi di tempo prima di andare alla nostra prima pausa. Io ho fatto l'esempio degli alimentari e bevande, non è che il fisco mi telefona e mi dice guarda, ho scoperto che tu in alimentari e bevande in realtà spendi molto meno rispetto a quanto l'Istat indicherebbe per il tuo profilo. In realtà il fisco me lo viene a chiedere qualora accertasse che io abbia effettuato un'operazione che è degna di essere messa sotto la lente di ingrandimento, quindi che ne so, ho fatto un investimento particolarmente stravagante quest'anno che non corrisponde alle mie capacità reddituali, allora poi da lì partono tutti i controlli ed eventualmente si va la verifica anche della spesa per alimentari, per la manutenzione ordinaria della casa, per l'energia elettrica e quant'altro, mi sbaglio? Beh, allora è assolutamente probabile che il meccanismo di innesco, così come era per il vecchio redditometro, sia collegato a situazioni che possono essere appunto intercettate da parte dell'amministrazione finanziaria, ecco. Quindi ad esempio l'acquisto di un'autovettura piuttosto che l'acquisto di un immobile, un incremento patrimoniale. Da lì parte, diciamo, l'attenzione nei confronti del contribuente e da lì sostanzialmente partono le verifiche relativamente al reddito dichiarato e a quello che è presumibile, poi tenendo conto di alcune spese determinate con i dati Istat, ma altre spese invece sono quelle risultanti proprio dai dati presenti nell'anagrafe tributaria, che sono moltissimi, e poi varrà la pena spendere qualche parola, certo, su questi, oppure sui dati comunque acquisiti da parte dell'amministrazione. Tra l'altro ho letto delle cifre, a quanto pare saranno 35.000 gli accertamenti sintetici che il fisco ha programmato di eseguire quest'anno sui redditi del 2009. Per fare questi accertamenti il numero dei contribuenti da verificare dovranno essere circa il doppio, circa 70.000. Nicola Forte, che ne pensa di queste cifre? Sono razionali, ragionevoli? Che ne pensa? Diciamo che sono ragionevoli le prime indicazioni, nel senso che le indicazioni che arrivano dall'Agenzia delle Entrate è che la lente di ingrandimento si concentrerà soprattutto sugli scostamenti di maggiore entità. Quindi la partenza può andare bene, poi in concreto, e questa è la grossa novità del redditometro, è l'obbligatorietà del contraddittorio, quindi è un vestito che va cucito su misura, quindi poi la vera partita si giocherà in quell'occasione, quindi difficile, facile programmare l'avvio dell'attività e quindi coloro che saranno chiamati, difficile programmare i risultati. Ecco, questo è un aspetto che va valutato con attenzione. Pellegrino, io non lo ritrovo adesso al volo, ho una marea di articoli del Sole 24 Ore sotto gli occhi, ma lo scriveva lei qualche giorno fa che per la verità è già potenzialmente individuata la platea dei primi contribuenti su cui far scattare le maglie del nuovo redditometro? Ma allora, diciamo che sicuramente la platea dei contribuenti è già stata presumibilmente individuata da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche perché in questa fase sono state fatte sicuramente delle simulazioni. Poi andando a sentire anche le indicazioni che erano state date dal direttore Befera e la stima, cioè che circa il 20% delle famiglie non sarebbe in linea con i dati del redditometro, è chiaro che qui insomma l'Agenzia delle Entrate ha, mi secca dirlo, l'imbarazzo della scelta, anche perché se poi noi andiamo a vedere i dati delle dichiarazioni, quindi i redditi che effettivamente vengono dichiarati da parte dei contribuenti italiani, gli importi sono molto spesso veramente bassi e quindi anche questo redditometro, che è una versione sicuramente meno aggressiva di quello precedente, può portare all'emersione di molte situazioni, insomma, non corrette dal punto di vista dei redditi dichiarati. Se, tra l'altro, non abbiamo ricordato anche che nei mesi passati molti contribuenti hanno avuto la possibilità di fare una simulazione della propria condizione di congruità sulla base dell'utilizzo del redditest, che per la verità poi alla luce dell'entrata in vigore del nuovo redditometro a questo punto forse perde di valore. Secondo lei, per capire se potrei essere oggetto di un accertamento da parte del fisco, vale la pena fare il redditest adesso, Pellegrino, così tanto da avere già un'indicazione di massima preventiva? Sinceramente penso di no, nel senso che ha generato, insomma, in molti di noi confusione la scelta dell'Agenzia delle Entrate di rilasciare il redditest per poche settimane. Sì, sì, il redditest, nel senso che poi noi abbiamo incominciato a lavorare facendo simulazioni su redditest nel presupposto che il redditometro funzionasse in modo analogo. Invece la logica è del tutto diversa, nel senso che il redditest, come il vecchio redditometro, ha al suo interno, poi ovviamente il software noi non conosciamo come lavori perché non ci sono neppure delle note metodologiche, ma ha dei moltiplicatori e quindi se io spendo 10.000 euro su una determinata voce piuttosto che su un'altra, il reddito presunto è diverso. Invece il redditometro, così come è uscito con il decreto ministeriale, va ad applicare quel rapporto 1-1 tra spesa e reddito, che poi diventa un rapporto incontrovertibile. Quindi il redditest, insomma, non ne capiamo sinceramente la funzione e quindi, insomma, penso che sia non utile per i contribuenti farla adesso, magari se è stata utile questa sperimentazione per apportare dei correttivi al redditometro, magari, ecco, che ne so, riconosciamo questo vantaggio, no? Nell'averlo potuto utilizzare, cioè ancora utilizzabile, però diciamo che ormai, come dire, la funzione si è un po' spenta, direi, Pellegrino. Ha dei risultati veramente paradossali, nel senso, noi abbiamo fatto ad esempio delle simulazioni su un nucleo familiare con 80.000 euro di reddito, ad esempio ed una situazione normale di beni e servizi, il sostenimento di spese mediche per circa 30.000 euro faceva diventare quel nucleo familiare incoerente. Se noi invece andavamo a sostenere altre tipologie di spese sicuramente meno necessarie, come le spese per apparecchiature elettroniche piuttosto che gioielli, questo importo che faceva scaturire la non coerenza era un importo molto maggiore, addirittura superiore al reddito. Quindi diciamo che il redditest probabilmente lo possiamo archiviare e probabilmente lo possiamo fare anche senza grande rimpianto, perché lo strumento non sembrava molto affidabile. Tra l'altro, con tutto quello che ha comportato anche in termini di emotività per chi l'ha utilizzato, per chi ha fatto appunto questa sperimentazione sul proprio profilo, spaventando anche moltissimo i contribuenti che temevano che una volta compilati tutti i campi del redditest, tutte queste informazioni poi passassero direttamente all'amministrazione fiscale, per cui se uno risultava incongruente, ecco che allora si sarebbe acceso automaticamente il riflettore del fisco. Non è così, tra l'altro abbiamo spiegato più volte. Andiamo agli ascoltatori, perché li ho fatti aspettare fin troppo. Luigi da Roma, buongiorno. Buonanotte, no? Buongiorno. Perché, Luigi? Perché? Perché ha ragione Oscar Giannino quando dice che viviamo in uno stato di polizia fiscale. Sono in par condicio, Luigi, non mi mette nei guai, salutiamo però affettuosamente guai, Oscar. Allora non nomino Giannino, ma glielo dico io che non sono nessuno, anzi io sono un disoccupato a carico di mia moglie. Mia moglie percepisce un reddito da schifo e non arriva neanche a 18.000 euro l'anno, ok? Non facciamo vacanze, non abbiamo figli e non possiamo permetterci di avere figli, non facciamo, compriamo la roba non si può, non può neanche capire come viviamo. Insomma, abbiamo uno stile di vita molto modesto, molto morigerato, abbastanza, Luigi, per questa abbastanza. Condizione. Che cos'è che la preoccupa? Abbiamo solo ereditato, bisogna vedere se anche da che punto di vista lo si vede, dalla morte di entrambi i miei genitori, una casa che è grande, dove io pago un condominio smodato perché la casa è grande, eccetera, eccetera. Abbiamo delle spese mediche abbastanza sostenute, non abbiamo barche, non abbiamo niente, le posso assicurare, non abbiamo niente. E abbiamo compilato questa assurdità, questa iniquità sociale che va a penalizzare il basso reddito. Posso chiederle se percepisce un reddito dalla questa casa che ha ereditato, Luigi? Perché magari può essere fondamentale ai fini della dimostrazione. Se il fisco le dice lei è incongruente, secondo i nostri parametri, però lei può dimostrare di avere un reddito, l'affitta. Che cosa ne fa di questo immobile? Ci vivo in questo immobile. Ah, ecco. Quindi non è fonte di introito aggiuntivo rispetto... No. Avevo un'altra casa che dove stavo pagando il mutuo, eccetera, che sono stato costretto a venderla perché ho preferito vivere nella casa dei miei genitori per ovvie ragioni mie personali. E quei pochi e quei soldi mi sono serviti per la ristrutturazione, per tante cose, per cose mediche, e si vive mangiando piano piano col tempo i soldi, e faremo in futuro anche una bruttissima fine se va avanti così. E quindi siamo incongruenti come c'è scritto sulla cosa. Ecco, quindi ha avuto il semaforo rosso. Poi voglio dire una cosa: questa benedetta agenzia delle entrate ha nomi e cognomi degli evasori, che viene a scovare il sottoscritto e che dovrà andare peraltro con la moglie, perché io sono a carico di mia moglie, quindi non so se chiameranno me o mia moglie. Ma non è detto, Luigi, che la chiamino. Adesso vediamo, sentiamo i suggerimenti dei nostri esperti per capire se lei potrebbe essere potenzialmente interpellato dall'agenzia delle entrate, perché appunto il fisco sostiene che lei non abbia una coerenza tra i suoi redditi che percepisce e le spese. Nella fattispecie Nicola Forte, l'ascoltatore, dice: io per le spese mediche spendo molto e sulla base di questa voce ho fatto i redditi test e risulto del tutto incongruo, incongruente, incoerente, non so come vogliamo chiamarli. Insomma, Luigi, parlate che non è detto che il fisco lo chiami. A quali condizioni potrebbe essere interpellato? Io ritengo che in questa prima tornata, in base alle assicurazioni che sono state date, l'attenzione, la lente del fisco si concentrerà sui grandi scostamenti. No, ecco, tra l'altro posso anche dire, esatto, adesso Luigi ha questa condizione in questo momento. Diciamo che gli accertamenti partono per i redditi del 2009 dichiarati nella dichiarazione dei redditi del 2010. Per cui magari in quel momento Luigi poteva avere anche una situazione assolutamente più tranquilla, non lo sappiamo, però potrebbe anche essere questo, no? E poi appunto dalle indicazioni che sono state fornite è che una serie di oneri, di spese, se non ricordo male anche di ristrutturazione dell'immobile, sono state sostenute con la vendita dell'immobile ricevuto e non acquistato, se non ricordo male. No, ma lui ci vive, quindi temo di no. C'è un immobile che ci vive, un immobile che è stato venduto, questi erano perlomeno i dati che sono emersi, quindi vuol dire che dalla vendita del precedente immobile, non quello che è utilizzato attualmente come abitazione, è stata ricavata una somma per sostenere una serie di spese. Poi è evidente che il problema qui di fondo mi sembra di comprendere, soprattutto considerato lo stile di vita, i dati ricavabili dall'Istat, che non sono dati, ripeto, l'importo particolarmente elevato. Quindi io in questo momento esorterei il nostro ascoltatore a stare tranquillo, non penso che francamente la lente del fisco si possa su di lui. Ci state scrivendo davvero in tanti, questa mattina c'è una ascoltatrice che ci racconta di una situazione piuttosto complessa in questa casa, una signora che ci racconta di avere 3 figli avuti da un ex convivente che gli passa ogni mese una determinata cifra, lei ha un reddito di poco sopra i 12.000 euro perché lavora poco e perché c'è anche all'interno di questo nucleo familiare un figlio disabile al 100%, ma non c'è verso però che io sia congrua, ci racconta questa ascoltatrice, anche se includo i bonifici dell'ex e disinvestimenti per 20.000 euro l'anno, scarico però il mutuo da 800 euro che però di fatti paga il mio ex convivente, anche se io lo scarico al 50% perché la casa è mia al 50%. Conta la presenza del figlio disabile che però io non scarico perché è a carico del padre, Nicola Forte? È una situazione un po' delicata, magari le giro questa mail e ce la studiamo con un po' più di attenzione? Sì, sicuramente. Direi che però vedo già intravedo degli elementi che possono tranquillizzare la nostra ascoltatrice. Il mutuo lo paga l'ex convivente, sì. Quindi vuol dire che quella spesa non può pesare nel calcolo del redditometro. Lo stesso discorso, fermo restando massima disponibilità a guardare con maggiore attenzione il problema della signora, le spese appunto per il figlio, che se sono materialmente sostenute o c'è un contributo dell'ex convivente, anche queste spese non devono pesare nella valutazione della, della situazione della signora. Però anche qui, a maggior ragione, considerata appunto questa situazione particolarmente delicata, mi sento di spendere e forse ancora più con maggiore chiarezza, dispensare maggiore tranquillità, perché non penso proprio che sia intenzione del fisco andare a aggredire queste infatti situazioni. A meno che, ecco, questa ascoltatrice, non lo so, faccia un investimento clamoroso, si compri una a parte, che sono situazioni che quelle che vengono verificate adesso, che risalgono al 2009, però a meno che in quell'anno questa ascoltatrice non abbia comprato un'abitazione da 400.000 euro che non c'entra nulla con il tipo di tenore di vita, di entrate ed uscite che si hanno stabilmente, allora in questo caso non penso che il fisco si diverta a fare questo accertamento, speriamo almeno, perché qua veramente la nostra amministrazione fiscale ci ha abituato un po' a tutto. Marco da Rovigo, buongiorno, rapidissimo, grazie, così accontentiamo un po' parecchi ascoltatori, se buongiorno, ce la facciamo. Buongiorno, senta, nel cambio di aver girato un assegno un paio d'anni fa, questo viene conteggiato con il reddito di un paio d'anni fa, appunto? Cosa ha fatto con questo assegno? Mi scusi Marco, che l'ho sentita male. Nell'aver girato questo assegno a un amico, volevo capire se viene conteggiato nel mio reddito 730 oppure come funziona. Tra l'altro, allora, Sergio Pellegrino, questi passaggi di denaro per sostenere altri componenti del nucleo familiare, un fratello, una sorella, uno zio in stato di necessità, perché magari si fanno delle operazioni interfamiliari che naturalmente sono all'ordine del giorno, sono queste forse le questioni che preoccupano di più gli ascoltatori. Ce n'è un'altra che ci scrive, Maria, che ci racconta di aver fatto proprio in settimana il rogito dell'immobile presso il quale penso andrà a pagare. Il notaio ha inserito in atto notarile che parte della cifra pagata deriva da bonifico a favore della figlia da parte evidentemente dei genitori. Certa che arriverà una sicura verifica, dice Maria. Ho tenuto tutti i movimenti del conto corrente, compresi alcuni disinvestimenti fatti per pagare parte dell'immobile. Se sarà necessario fare un contraddittorio con l'amministrazione fiscale, tutto questo, tutte queste pezze giustificative, le chiama Maria, basteranno, ci risponde, per entrambi i casi, in Pellegrino? Beh, allora, assolutamente, nel senso che è chiaro che io nel momento in cui dimostro di aver utilizzato delle risorse non mie per acquisire un bene, come può essere ad esempio in questo caso l'acquisto dell'immobile, sposto di fatto il problema dalla mia posizione personale, esatto, a quella del degli soggetto altri che ha erogato. Quindi, quindi, visto che in Italia insomma è molto frequente l'aiuto da parte dei genitori, il caso è un caso assolutamente comune, quindi i genitori che aiutano il figlio. Da questo punto di vista, insomma, l'ascoltatrice fa benissimo a conservare evidenza di questi passaggi e quindi insomma sulla sua posizione dovrà essere verificato che questa dazione di denaro sia coerente rispetto ai redditi che sono dichiarati. Però anche qui voglio tranquillizzare sul fatto che potrà anche essere data dimostrazione del fatto che sono stati utilizzati dei risparmi degli infatti, anni precedenti. Quindi insomma se questi soldi non sono piovuti dal cielo così casualmente, o se non avete una pianta di denaro nel vostro giardino, circostanza che ritengo per tutti noi totalmente improbabile, insomma non preoccupiamoci almeno per questi casi. La questione degli assegni invece, Pellegrino? Allora, ricompresa, ecco. Sulla questione degli assegni, chiaramente se l'ascoltatore ha dato un assegno ad altra persona, è lui che deve dimostrare il fatto che quel determinato importo è coerente quindi con quello che è il suo reddito dichiarato. Però insomma, sono le situazioni, secondo me queste delle dazioni di denaro sono le situazioni che non destano problemi, chiaramente se la situazione del contribuente è una situazione come un profilo tranquillo, certo. Insomma. Carlo, no, aspetti, Michele, sono entrambi arrivati poco fa. Carlo da Biella, buongiorno. Sì, salve. Che sta ereditando 200.000 euro e vuole comprare un'auto d'epoca. ma ho un reddito basso, voglio comprare un'automobile che con il mio reddito di lavoro non potrei comprarmi. Ma lei ipotizza? Ma lei ipotizza l'arrivo delle ricchezze del patrimonio? Come, scusi? No, allora la sto interrompendo perché ho visto nell'anticipo della domanda che mi hanno scritto le ragazze del centralino che lei ipotizza l'arrivo di un'eredità da 200.000 euro e lei dice: se io comprassi un'auto con questa cifra, pur avendo un reddito mensile molto contenuto, potrei essere oggetto di controllo? Questo mi pare che volessi chiedere. Eccoci, Carlo. Allora, ci siamo un po' sovrapposti, me ne scuso, però Nicola Forte, il tema è che se questa cifra con cui si compra quest'auto di lusso e si fa questo gran regalo viene certificata, documentata... Non esistono problemi, perché tecnicamente, questo è chiaro anche leggendo il decreto, che la circostanza che l'ascoltatore riceva una somma di denaro per effetto di un'eredità, ancorché sotto il profilo economico non è un disinvestimento, ma viene di fatto equiparato a un disinvestimento, cioè tutto ciò che entra per effetto dell'eredità è come se lui l'avesse ottenuto, ad esempio, non è la stessa cosa, vendendo un immobile, quindi potrà utilizzare quel ricavato che riceve in base alla dichiarazione di successione per investire, come attraverso l'acquisto di un'auto d'epoca. Quindi sotto questo profilo questa situazione dovrebbe passare tranquillamente sotto la lente di ingrandimento del fisco senza creare nessun problema al nostro ascoltatore. Il caso che ho sollevato all'inizio, Sergio Pellegrino, ritorno da lei peraltro gli ultimi due minuti di tempo di programma. Allora, io ho due conti correnti, i miei soldi rimbalzano da uno all'altro perché uno dei due conti mi garantisce un determinato tipo di rendimento. Sa che adesso ci sono questi conti di deposito che sono molto remunerativi, però per il redditometro è vero che le due cifre si sommano e quindi il reddito risulta doppio e anche triplo se giriamo continuamente le somme da un conto all'altro? Ora, secondo me questo tipo di problema non si pone assolutamente, nel senso che le movimentazioni finanziarie che vengono comunicate all'anagrafe tributaria effettivamente determinano una moltiplicazione da questo punto di vista, però è chiaro che nel momento in cui il contribuente dovesse essere chiamato ad un contraddittorio avrà, diciamo, da questo punto di vista gioco facile a dimostrare che si tratta sempre degli stessi importi che vanno a transitare da un conto all'altro, quindi direi che questo non è un problema che si pone e forse, insomma, si sta creando un eccessivo allarmismo, anche perché sicuramente lo strumento è uno strumento invasivo, ma come diceva anche prima Nicola, allora, insomma, quello precedente era decisamente peggio. Tremendo. Quindi... Allora, siamo in chiusura, non riesco a rispondere a Michele da Treviso, gli chiedo di scriverci, se ha voglia, perché i nostri amici ci aiutano sempre molto anche a rispondere a tutti i casi. Un'ultima raccomandazione, Nicola Forte, l'assegno a lei. Dobbiamo essere un po' più forse rigorosi nel mantenimento intanto delle documentazioni che certificano tutti i nostri traffici di denaro, chiamiamoli così. 10 secondi. Sicuramente è vero, anche se non è non che... buttiamo via l'estratto conto quando arriva, perché molti lo fanno, lo leggono, è tutto a posto, via. No, magari certo, ecco. Questo dà anche l'idea al fisco di trovarsi di fronte una persona rigorosa, scrupolosa. Infatti. E quindi sicuramente avrà modo di pesare con maggiore attenzione le mie argomentazioni. Tanto da qui a marzo faremo altre puntate, rimetterò insieme questa squadra vincente composta da Sergio Pellegrino e Nicola Forte. Grazie ad entrambi per la collaborazione di stamattina. Salvadanaio torna domani. A tutti buona giornata.